Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Ed eccoci di nuovo con voi dopo le feste di Natale, che mi auguro abbiate passato bene. Un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Ciao Antonio. Ciao Gesi. Come hai passato le vacanze? Ma insomma, moderatamente bene, diciamo, insomma, senza infamia, senza lode. Non hai mangiato troppo, vero? Beh, su questo preferirei sorvolare, ecco. Ah, allora sorvoliamo, vai, perché altrimenti... E allora diamo un cordiale benvenuto, anzi ben ritrovate, alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria che continueremo anche in quest'anno. Diamo il nostro indirizzo internet bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti, critiche ed altro, che è il 346 23 20 033. Ricordiamo sempre che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un saluto al nostro regista anche per quest'anno, naturalmente. Gli auguriamo anche buon anno. Certamente. Bene, ma anche al nostro coordinatore, che è Mirko. Mirko, naturalmente, bene. Certamente. Allora, stasera avremo un ospite virtuale, la signora Franca Franceschini, che è una asolana doc, e ci parlerà un pochino della storia di Asolo. Ma prima di tutto cominciamo con una canzone titolata proprio Gocce di Memoria, perché la nostra trasmissione non è... Sì, si potrebbe anche titolare Gocce di Memoria, vero Antonio? Certo, certo. Perché sì, noi andiamo a ritroso e ricordiamo tante cose. Bene, allora ci ascoltiamo Gocce di Memoria cantata da Giorgia. Gocce di memoria, queste lacrime nuove, siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Che mi appartiene, siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani. Di nuovo in studio e abbiamo al telefono la signora Franca Franceschini. Signora Franca, buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Lei è un'appassionata di storia di Asolo, m'han detto. Sì, sono appassionata della storia del mio paese. Ecco, sì, che penso anche. Sì. E così stasera ci renderà un po' edotti di quella che è stata la storia un po' indietro negli anni. Ecco, allora, qui c'è anche il mio collega che è Antonio Ceccato. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ecco, allora noi le lasciamo la parola, signora. Grazie. Allora, io diremo mi occupo, mi interesso di sempre del mio paese, come è naturale che sia, trovo strano che gli altri non si interessino. Ad ogni modo, il mio paese è un paese particolare, per cui è anche difficile non interessarsi della sua storia e di quello che è stato nei secoli, insomma. E anche perché negli ultimi anni ci sono stati fatti degli approfondimenti abbastanza importanti dall'Università di Padova, per cui anche gli aspetti che erano rimasti misteriosi per molti anni sono stati svelati e anche datati con molta precisione. Agione è una cittadina molto particolare, è una delle città murate del percorso veneto che viene fatto con Cittadella, con Marostica, con Treviso, però ha di particolare che la situazione geografica è molto amena, è molto piacevole e poi il paese è molto piccolo, per cui proprio per essere arroccato in cima a una montagnola e proprio per la sua scomodità si è mantenuto forse più di altri centri murati che sono in pianura e che avevano molto spazio attorno. Certo. E poi anche la patria di Leonora Duse? No, non è la patria di Leonora Duse. Eleonora Duse non nasce ad Asolo, non muore ad Asolo, vuole essere sepolta ad Asolo. Conosce il paese molto tardi nella sua vita perché è ospite di amici qui ad Asolo e scopre che questo luogo è l'ideale per rilassarsi e per trovare la pace, perché c'è un'armonia attorno che riesce a tranquillizzare anche lei, che è un animo molto inquieto, per cui lascia proprio scritto che alla sua morte vuole essere sepolta qui nel cimitero dei poveri, che è il cimitero di Sant'Anna. Ho capito. Asolo ha una storia abbastanza antica? Sì, è una cittadina che è sempre stata abitata. Le tracce risalgono già al X secolo avanti Cristo, proprio come insediamento umano. Però tracce molto importanti sono state portate alla luce negli ultimi anni e se anche visibili per quello che riguarda la zona del teatro romano, la zona dell'acquedotto romano e dopo che c'è una grande presenza dell'epoca medievale e rinascimentale, perché è il periodo in cui vive qui per 20 anni la regina Cornaro e il paese prende una struttura cittadina anche un po' mondana, diremmo, ecco. Sì, comunque, che mantiene. Sì, che mantiene tuttora. Sì, ma deve averla sempre avuta anche in epoca romana, però questa piega, diremo, un po' godericcia, perché è proprio il luogo che è sempre stato un luogo di villeggiatura, è un luogo di arie particolari, un luogo anche di divertimenti, insomma. È un clima più asciutto il vostro? Sì. Diremo che è un clima più mite degli altri, non è mai troppo umido, non è mai troppo freddo, non è mai troppo caldo, per cui anche quando giù ai piedi della nostra collina si arriva d'inverno a meno 14, qui in centro magari arriviamo a meno 2. Ah, ma proprio c'è una differenza? È un luogo a meno, naturalmente. Sì, si sta bene, è come la sera d'estate, se giù in pianura se è caldissimo da morire soffocati, qui c'è sempre un'escursione che è molto piacevole, insomma. E allora lei mi diceva appunto che risale a epoca romana. Ecco, l'epoca romana. E veneta abbiamo tracce, già anche in epoca veneta. Ho capito. E come si è... Sì, così... Logicamente sarà stata proprio una frazione di campagna forse all'inizio? No, non è mai stata una frazione di campagna, è sempre stato un luogo di avvistamento importante. Ah, subito così? Sì, perché l'ultima collina, quella sulla quale si trova Asolo, diremo, è tra il Brenta e il Piave un posto di avvistamento privilegiato, per cui è una città fortificata già ai tempi di Plinio il Vecchio. Addirittura. Ed è annoverata tra le città, tra le oppida, quindi le fortezze in territorio veneto che sono sotto l'influenza di Roma già nel primo secolo avanti Cristo. Pensa un po', com'è abbastanza... Sì, ha sempre mantenuto, diremo, una situazione di vedetta, ecco, perché se lei va a Bassano, da Bassano vede la rocca proprio in linea retta, quindi quei messaggi di fumo o dei specchi sapevano tutto immediatamente di chi usciva dalla Val Sugana. Ma pensa. È straordinario. E lo stesso dalla Valle del Piave, che era un altro corridoio di invasione, diremmo, ecco. Capito. E poi come si è evoluta la cittadina? Diremo che dopo ha mantenuto sempre questa caratteristica di fortilizio con due castelli, che è il castello che è in centro e la rocca che è in cima alla collina. Però in epoca medievale ha avuto tutta la cinta di mura attorno e ha avuto molte famiglie che sono arrivate qui, soprattutto dopo il 1300, sono arrivate qui un po' dal Bergamasco, da tutta l'Alta Italia. Ma pensa. E sì, e lapicidi, gente che lavorava le stoffe, perché questa è una zona di molta acqua, per cui c'era passaggio di greggi da sempre. I romani che aveva fatto una strada che da qui portava a Padova per portare giù il velo delle pecore, che dopo là veniva a lavorare. Ah, ma guarda, pensa un po'. E poi adesso c'è ancora, no? Cioè, adesso lei mi ha detto che avete tanti divertimenti, che oltretutto è una città godereccia. Sì. Allora, diremo che è una città adesso di seconde case, come tutti i centri storici, capito. È stata, diremo, circa 30 anni fa usata per fare grosse speculazioni edilizie, speculazioni edilizie nel senso di compravendite di case importanti e di restauri di case importanti. Non stravolgimento come no, da altre parti. No, perché non è possibile, perché non c'è spazio. Appunto. E poi è tutto vincolato, ma c'è sempre stata, diremo, una discreta vita notturna, un modo di vivere molto cittadino più che campagnolo. Asolando e tutte queste cose. Sì, diremmo sì che ha questa aria abbastanza internazionale anche, per cui anche se ci si siede fuori al caffè non si vede passare il turista veneto, si vede passare il turista che va a Venezia, quindi il giapponese, il canadese, l'australiano, il brasiliano, cioè che sei un passaggio che si vedrebbe a Firenze, a Venezia, in altre città d'arte importanti. Pensa un po'. Sì. Sì. E quindi avete anche teatri, vero? Avete il teatro? Ci sono due teatri. Sì. Ci sono due teatri e sì, vengono fatte delle stagioni concertistiche importanti, perché c'è il concerto di musica da camera, la rassegna di musica da camera in autunno, dopo ci sono due rassegne teatrali in primavera e in autunno, una al Teatro Duse e l'altra al Teatro dei Rinnovati, ci sono spesso concerti e anche diremmo un festival del cinema, ci sono delle rassegne abbastanza importanti, insomma, ecco, non a livello locale, proprio a livello grosso, insomma. Quindi voi avete animazione? Sì, anche se non ci si muove, diremmo che il paese offre parecchio. Beh, comunque ci sono tanti turisti di fatti che arrivano, vero? Questi ultimi anni di crisi un po' meno come dappertutto, però se la stagione è buona noi incominciamo a marzo a vedere gente e arriviamo a fine ottobre con tutto il mondo che ne scorre sotto gli occhi. Addirittura? Sì, quindi non è un turismo mordi e fuggi, ma è un turismo di qualità, un turismo di cultura, diciamo. Ecco. Diremo che non è che si fermino più di tanto, perché è proprio il turismo cambiato, mentre una volta che c'erano i villeggianti, certo, che stavano certo qua 2-3 mesi, ecco. Adesso stanno qui magari 2 notti, 3 notti, però vengono per vedere la tomba della Duse, vengono per vedere i luoghi cantati dal Browning, vengono sì per vedere quello che hanno letto, perché è molto citata da personalità famose, insomma, ecco. Signora Franca, ci fermiamo un momento per un'altra canzone. Lei ci aspetta? Sì. Dopo veniamo subito da pure lei. Grazie, sì. Grazie. Allora, intanto che la signora Franca ci aspetta, noi ci ascoltiamo una canzone cantata da Roberto Carlos. Roberto Carlos ha vinto il Festival di Sanremo del 68, poi tutti gli anni 70, insomma, lui compone le canzoni, ha composto diverse canzoni in italiano che a mio avviso sono molto carine. Adesso purtroppo non si sentono più e non si trovano più, si trovano solo canzoni cantate in brasiliano. Allora, stasera vi facciamo ascoltare Io sono un artista. Sono innamorato, ma non cambierò il mio modo di vita. parte il giorno fino all'imbrunire, ma la notte no. Di notte voglio scrivere canzone che tu un giorno sentirai. Io sono un artista e come un artista la notte per me. Non credere amore che in queste parole non c'è sentimento. Da quando ti amo col sole che sorge non penso che a te. Ma le ore della notte no, di notte no, tu non cercami mai. Io sono un artista e come un artista la notte per me. Per questo non lasciamoci, per questo no, per altre cose sì. Il giorno è per te, la notte per me, di problemi non ce n'è. La notte per me di problemi non ce n'è. Non credere amore che io cambierò il mio modo di vita. Da quando ti amo col sole che sorge non penso che a te. Ma le ore della notte no, di notte no, tu non cercami mai. Io sono un artista e come un artista la notte per me. Io sono un artista e la notte per me. Ed eccoci di nuovo in studio con la signora Franca e la città dei 100 orizzonti, se non sbaglio, viene definita, giusto? Sì, l'ha definita così Carducci. Carducci. E che era amico dell'onorevole Bianchetti, che è un asolano. Ecco, e naturalmente si sprecano, mi pare, le personalità. Abbiamo parlato della Regina Cornaro, di Robert Browning, di Freya Stark, se non ricordo male, anche e per finire con Sergio Saviane, buon'anima, giusto? Sì. E quindi è stata prescelta proprio da multiforme, diciamo, popolo di intellettuali, eccetera. Sì. E della Regina Cornaro qualche notizia? La Regina Cornaro in pratica viene qui alla fine del Cinquecento, perché l'isola di Cipro incomincia ad avere problemi proprio di gestione. La Cornaro era andata a Cipro 20 anni prima più o meno, ed aveva tenuto l'isola per 20 anni, avendo sposato Giacomo II di Lusignano, che non era l'erede legittimo al trono. E i periodi sono sempre stati abbastanza burrascosi. Lei ha avuto in cambio, per lasciare Cipro, da Venezia la podesteria di Aslo, che allora era una podesteria molto grande, che arrivava fino a Cimagrappa, fino al Brenta, fino al Piave, fino a Castelfranco. Però. Era una podesteria molto ricca, ed lei per 20 anni soggiorna qui ad Asolo e come si usava nel Cinquecento, ha una corte molto importante attorno a sé. Per lei il Bembo, che è suo cugino, scrive gli Asolani. Probabilmente vennero qui anche il Giorgione, vengono qui Lorenzo Lotto, personalità dell'epoca, insomma. Lei era molto amica anche di Isabella d'Este. E andava su e giù tra Venezia e Asolo, perché aveva casa a Venezia, aveva casa a Murano, quindi a seconda della stagione lei era abituata anche a muoversi per le vacanze. Quindi avrà anche una villa lì? Non aveva una villa, lei viveva nel castello perché quella era la sede, diremo che era riservata da Venezia. Sì. Però lei aveva costruito, fatto costruire e mai ultimato, a pochi chilometri, a 5 chilometri in linea d'aria da qui ad Altivole, un barco, un posto che era recintato da 3 cinte murarie dove lei andava a caccia. Il famoso barco della regina Cornelia. Il barco di Altivole, dove teneva, diremo, feste, e teatro e andava a caccia, proprio che c'era ogni genere di animali liberi dentro il recinto e che c'era ricostruita la natura come era fuori. Ad esempio ha preso, diremmo, degli spazi che erano proprio di tradizione orientale. Che bello. Questi spazi murati con dentro il paradiso proprio. Che bello, però è molto suggestivo pensare a queste cose qua. Sì, era un'altra epoca. Sì. È veramente altri orizzonti proprio, sì, culturali, eccetera. Sì. E poi magari di Sergio Saviani. Sì. Sergio ha vissuto molto il paese, perché diremo la prima casa che ha scelto era proprio qui ad Asolo, dopo è andato a abitare a Monfumo, però ha molto aiutato anche i ragazzi che allora facevano un giornalino locale che era appunto a capo, li ha molto aiutati, ha dato tanti consigli, poi era una persona che viveva molto la compagnia, era uno che stava molto spesso all'osteria, che piaceva la gente proprio, era una persona molto particolare, io l'ho conosciuto anche, mi sono trovata a cena tante volte con lui, ma tanto era timido in certi argomenti e tanto diventava violento, sì, quando si toccava il nervo scoperto. Esatto, i mezzi busti. Andava bene per quello. Era un grande, i misteri di Allegher, sì, ricordiamo. Sì, anche. È ancora un capolavoro. Certamente, è un personaggio. È ancora un capolavoro. Un personaggio con la schiena dritta, diciamo, rispetto ad altri che abbiamo oggi. Sì. Una persona rispettabile. Ecco, questo. E poi avete altri, ci parlavano di qualche altra personalità? Montanelli vorrei dire. Sì, diremmo sì, anche diremmo proprio perché abitava qui la Freia, venivano qua abbastanza personalità a trovare, diremmo un po' tutto quanto il mondo nobiliare attorno, anche perché gravitavano attorno alla tessoria asolana, quindi la tessoria allora quando era aperta ha fatto un po' le stoffe per tutte le ville venete, quindi che gli era tutti quanti. Gli Emo Capodilista, i Barbaro, diremo tutta quanta la crema della nobiltà. Sì, è una cittadina molto particolare, insomma, molto particolare. Non è facile trovargliene una, forse in Toscana, ecco, dove centinaia d'anni alle spalle di tradizione, non è una cosa che nasce dall'oggi al domani. No, effettivamente. E dopo molti artisti anche, perché è stata molto amata negli anni 60 sia da Tinto Brass, che ci gira qui il disco volante. Giusto. I Brass poi avevano una casa qui ad Asolo, lui ha passato la sua Cipriani infanzia era qui. La sorella di Arrigo, mi pare. Come veniva a fare le ferie Zorzi. Alvise Zorzi, sì, grande. Diremo, e restano molto legati ad Asolo, come De Sica è stato qua una barca di volte. Anche lui? Maria, ha girato anche un film qui. Ah sì? Sì, Amanti. Ah. E veniva sempre su Mastroianni, Mastroianni era un abitué proprio, portava tutte le morose Mastroianni, una carrellata di morose che abbiamo visto tutte. Ma era un uomo affascinante, dai. Era molto simpatico, era molto simpatico. Una persona umile a differenza di altri, diciamo. No, era di un'altra, un'altra epoca. Sì. Poi lui non è che fosse lui che corteggiava, era corteggiato, era talmente sornione non poteva non piacere. Certo. E di qualche attrice donna si ricorda? Di qualche attrice donna io mi ricordo che non ero piccolissima, però veniva su a Mangano, veniva su a Vitti. Oh, che simpatica, sì. Monica Vitti. Che... Dopo che sei stato qua negli ultimi tempi, perché ci sono stati fatti dei seminari di teatro da... come si chiamava la signora Barron, che è morta un anno fa, venivano fatti dei seminari dall'Actor Studio di New York. Actor Studio, oh là là. Sì, e quindi là c'era anche tutta la nuova ondata con Raoul Bova, sì, e tutti quegli attori nuovi che io adesso non conosco, però sì, si vedevano in giro per il paese perché stavano dentro una decina di giorni a fare questi seminari durissimi, sì, non parlavano tutto il giorno. Beh, immagino, perché comunque c'è tanta cultura anche, veramente. Ringraziando Dio, insomma, sì, rimane ancora sto stampo un po' elevato, ecco. Certo, certo. Per non parlare della cultura universitaria, con il CIMBA, il consorzio di 37 università americane, del quale vorrei sapere un pochino di più, cortesemente. Allora, sì, lì diremmo, è iniziata circa una trentina di anni fa, il signor Jim Moon, che era un docente americano, è venuto qui ad ASO, forse sulla scia, credo, di Browning, e ha incominciato a portare qui delle comitive di studenti che studiavano disegno, e alla fine dell'estate, Origine era ospite a Villa Freia, alla fine dell'estate gli faceva una mostra di tutti quanti i disegni che avevano fatto. Questa sua, diremmo, questo suo avviamento ha portato poi circa, sarà ormai 20 anni che è aperto il CIMBA, a questa struttura permanente di diverse università americane, 37, ecco qua, che hanno il loro centro su al collegio di San Luigi o San Pietro e Paolo, come si vuole chiamarlo, e lì vengono fatti dei master molto famosi, insomma, che richiamano anche gente da fuori, anche studenti MBA, da fuori. Esatto, sì, master annuali durante la settimana o biennali durante il fine settimana. Ecco, quindi lei ne sa più di me. Io ho un paio di... io ho un nipote e anche un amico che ne hanno fatte, molto prestigiosi, devo dire. Ecco, sì. Io quindi... vedo che danno, insomma, molta vita al paese. Certo, certo. Beh, immagino, un sì, respiro internazionale, anche, quale ha sempre ecco, avuto. Ecco, occupano una struttura bellissima che altrimenti, coi tempi che corre, sarebbe veramente un peccato e lasciar perdere. Che mi pare recentemente abbia avuto appunto qualche sollecitazione in merito, se non ricordo male, di qualche problematica, diciamo, trattata. E questo non so dire. Diciamo che è andato tutto a buon fine, sembra, ma c'è stato qualche piccolo screzio, se non ricordo male. Non so dirlo. Mi pare che ci sia un collegio anche religioso, mi pare, no? Sì. C'era il collegio di Santa Dorotea e c'era il collegio dei Filippini. Ecco, però mi pare. Il collegio dei Filippini, diremo, ha chiuso molti anni fa ed è stato venduto la parte che era qui ad Asolo, che erano le medie. E il collegio di Santa Dorotea, invece, che aveva il liceo e le magistrali e le medie, si è convertito circa 40 anni fa ed è diventata un'oasi di studio. Anche. Sì, e quindi è lì che tengono anche corsi di politica, corsi di teatro, corsi di yoga, corsi di medicina, un po' di tutto. Quindi è un polo di attrazione veramente dal punto di vista di varie cose. Sì, diciamo, perché dopo tanti anni anche diremo che rassegne che si ripetono ormai da molti anni, perché io vedo anche le stesse persone che tornano a intervalli regolari per approfondire le loro cose, insomma. Certo. E anche il teatro, penso che la vostra rassegna teatrale sarà molto interessante. Le rassegne teatrali, Gesenti, un teatro fa una rassegna più moderna, diremo, con le opere che vengono portate in giro dagli attori. Guardi, adesso lei mi trova in un momento che leggo molto e vedo poco. È perché non ho tempo di andare fuori la sera. Non reggo più le ore notturne, e per cui sto a casa e leggo. Però diremo che Lella Costa, cosa posso dirgli, adesso è il primo nome, che è Licia Maglietta, che ha fatto un lavoro Pane e Tulipane. Eccola, sì, ha fatto un lavoro su 2 anni fa, che sono andata a vederla, mi sono sforzata, molto brava. Tutte queste nuove attrici, insomma, diremo. Sì, ce ne sono anche di brave. Quarantenni, brave. Sì, no, ce ne sono anche di brave. Forse una volta ce n'erano veramente di... Una volta ce n'erano meno. Però erano brave quelle che c'erano. Ecco, sì, ecco. Beh, la gente era anche diversa, sì. Vedeva l'attore sotto un'altra luce, sì, diremo. Sì, sì. Perché alcuni sono molto bravi. Però una volta si aveva un'altra ottica per vedere le cose, secondo me. Ecco, e quello che era di una volta sembra sempre migliore. Sì, sì, sì, è vero, si rivaluta, è vero. Si rivaluta il passato, dalle miserie del presente. Anche perché fa parte, diciamo, è una storia della nostra vita e quindi la si vede in maniera un po' diversa. Sì. Poi i grandi erano grandi, adesso ce ne sono tanti. Poi viene tutto bruciato in breve tempo. In breve tempo, ecco, questo non viene più centellinato come un tempo. Appunto. Mentre la stagione musicale, anche mi pare che sia notevole. Sì, la stagione musicale è molto importante, e lì c'è la stagione di musica da camera, diremo, dove che viene proprio nomi grossissimi. Sì, sì. E dopo c'è anche una settimana che viene dedicata ai giovani di talento di tutto quanto il mondo. Eccolo là. E lì c'è Elisabetta Maschio, che è direttrice d'orchestra, sì, che è Asea, che organizza tutto quanto e segue tutti i bambini. e se ci sono le prove a porte aperte giù opera a meritoria, meritoria. Bellissimo, poi lei immagino. Veramente è una passione, poi sti bambini è eccezionale la cosa, poi riesce a farli lavorare in maniera molto seria, ma si divertono da morire e si diverte anche il pubblico. Questo. Signora Franca, ci fermiamo ancora un momento per un'altra canzone, poi così passiamo all'ultima tranche. Va bene, grazie. Allora, la terza canzone in programma è cantata da la compianta Marisa Sannia ed è intitolata Un aquilone. Ritorna la mia mente un mese fa e ci ritrova insieme innamorati io e te. La stanza, due bicchieri, noi due. Di nuovo in studio ancora con la signora Franca. Signora Franca, sì. Le voglio chiedere per quanto riguarda il folklore. Sì. Beh, diremmo che negli ultimi anni sono nate due associazioni che portano avanti anche manifestazioni in costume con tutti quanti i figuranti e anche ricostruzioni storiche molto particolareggiate. E una Gea Zolando e l'altra adesso non mi ricordo bene il nome, e che ad ogni modo due gruppi di figuranti, una dell'epoca di Acornaro, quindi del 1500, sì. E l'altra di epoca di Ezzelino Romano, quindi siamo nel 1200. Sì. Ed è molto bello perché lì che c'è stato fatto un approfondimento storico abbastanza massiccio, e quindi tutto lo studio dei costumi, e quando viene fatta la festa, quella del palio annuale, ci sono proprio tutti questi gruppi che sfilano ed è anche interessante da vedere, ecco. Dopo vedo che vanno spesso in giro a fare anche rappresentanza in altri paesi dove che a Cornaro ga avu peso, dove che sì. Il Romano ga avu peso, certo. E dopo ci sono le nostre cose insomma locali, scadenza de autunno, le feste dell'uva e a fiera, queste cose qua insomma, ecco. Adesso il carnevale che come no, il carnevale qui direi che non ha proprio nessuna tradizione, niente rilevanza, no, diciamo, proprio come nessuna tradizione parti. Credo l'altra sera, forse il 6 di gennaio, la sera dei fuochi, dei pan e vin, insomma, allora là è ancora sentito perché per le case i fasti falò e si incontrano in tutti a cantare, a guardare il fumo dove va, ma come carnevale no, non c'è una tradizione che capi dei rappresentazioni. Comunque ha detto festa d'autunno? Cosa... Beh, d'autunno, che è una festa del ringraziamento abbastanza grossa. Come in America? Fa. Sì, sì, la globalizzazione è un po' così, e quindi là fanno, ringraziano per i prodotti della terra, allora ci sono tutti quanti i produttori locali, fanno una grandissima fiera qua, con sempre i suoi figuranti, allora in costume dell'Ottocento, no, è bello, è piacevole da vedere, anche per tutte le età, insomma, feste abbastanza grosse, folklore di altro tipo, non mi pare. In primavera non avete niente di particolare? No, feste. In primavera mi digarie proprio del no. No, no. Tu D'Antonio volevi chiedere? No, dal punto di vista delle opere d'arte praticamente, sì. E questa è una cosa interessante. Allora, opere d'arte vere e proprie, beh, noi abbiamo quella che è in assoluto credo l'opera più importante, che è la Madonna l'Assunta del Lotto in chiesa nel nostro Duomo, insomma, e ha di particolare che alcuni studiosi, con teorie credibili, gli disse che la Madonna, che è una donna vecchia, sui 60 anni, sia stata commissionata dalla Cornaro e sia il ritratto della Cornaro. Però. Per cui questa donna che si vede con le mani ingrossate, diremo, e con questo viso non bello, è la committente del quadro. Il quadro è un quadro molto importante che è stato restaurato 2 anni fa ed è stato anche in mostra alle scuderie del Quirinale per una mostra sul Lotto. Sul Lotto, sì. Sì, è un bel quadro, insomma. E dopo ci sono, diremo, altri quadri in chiesa nostra, soprattutto in chiesa. Invece bello da vedere, secondo me, perché lì c'è uno spaccato di tutta la storia di Asolo e il museo di Asolo, perché con gli ultimi scavi che sono stati fatti è stato molto rimpinguato e sono state fatte ricostruzioni di quei che c'erano i manufatti romani in zona. E dopo è stato trovato anche questo lacerto di mosaico dentro alla rocca, la rocca è stata datata, c'è stato trovato questo tratto di pavimentazione della chiesa precedente alle mura della rocca, che era proprio dove adesso c'è la rocca, dentro sì. C'era una chiesetta in epoca barbarica. Pensa un po'. Sì, e il museo ha anche questa bellissima stanza dedicata alla Duse con moltissime cose che sono appartenute a lei, molto bella. E una gran pinacoteca, una parte dedicata alla Freya Stark, e parte dell'archeologia. Sì, molto interessante, perché in una città così piccola trovare un ventaglio, una così, varietà proprio, sì, così, sì, di, sì. E anche ben documentato, ben messo, molto ben messo. Sì, sì. Poi questo rapporto particolare con, diciamo, l'alta cultura, l'università, eccetera, sì, credo sì. Che benefici non poco. È quello, sì, perché diremo, se si ha bisogno di qualcosa, se ha sempre agganci, anche c'è gente che viene su volentieri, che conosce già, diremmo, ecco, perché la realtà è da molti anni studiata, ecco, per cui siamo privilegiati sotto un certo punto di vista, ecco. Siamo privilegiati. Anche dal punto di vista del traffico, mi pare, perché c'è il parcheggio a piedi della collina, o c'era, almeno io ricordo qualche anno fa che... Allora, lì sono stati fatti negli ultimi anni due spazi molto grossi per il parcheggio a metà della collina. Quindi scambiatori. All'altezza dell'ospedale, Ghesè, e uno spazio per le roulotte, proprio per i campeggiatori. Bello. Sì, sì. E anche uno spazio per le macchine, che è enorme. E dopo ce n'è uno ancora più sul sotterraneo, dove che porta la macchina anche gli asolani, e qui è una capienza notevole. Ecco, questo è anche probabilmente uno dei fattori che rendono Asolo una città particolarmente, come dire, fruibile, priva di questo assedio del traffico. Io eccetera, le eccetera. Dirò che anche la domenica io ho un negozio, la domenica io ho tantissimi abitué che vengono su lasciando la macchina proprio ai piedi della collina. Sì, infatti questa è la... E vengono su a piedi perché colline è sempre una besa incredibile. Sì, immagino. Adesso essere... poi fra 3 mesi in primavera è tutto fiorito una di meraviglia. Ciliegi, è tutto bianco. Sì, oh, che bello. Tutto bianco. Bellissimo. Quindi Asolo, asolani, bisogna, ecco. Bisogna andare a passare qualche bella domenica ad Asolo. E bisogna venire con calma e venire su a piedi se si vuol vedere quello che hanno visto quelli che sono venuti qui. qui, esatto. senza fretta, senza macchina, senza correre, senza aspettarsi chissà che. Bisogna guardare tutto quello che si incontra, perché è tutto bello, perché qui c'è l'armonia ancora, le dimensioni. Beh, è un bello spot pubblicitario per la città. Ma io amo la mia città, e così deve essere. Ma guardi che sento a volte qualcuno che è fuori dice: ma è tutta quanta qui. No, e ora mi vofora, perché mi posso onde una violenza inumana, vofora e che dico: signora, asebea, perché è tutta qua, che dico. Se a fusse in caparde a, avarde qua che sei, accesa, a pretura, il municipio, il museo, il caffè, la fontana. Tutto concentrato. Se va a Certaldo, signora, lo trovo ancora più stretto. Sì. E Certaldo è Certaldo. Certo. No, beh, questo è l'approccio corretto. Bisogna diventare cattivi delle volte, cioè. E se no, li mandiamo da un'altra parte, se no mi piace. Li mandiamo a Jeso. Esatto. altri posti. Pare il Joe. Signora Franca, sì. Noi la ringraziamo moltissimo dello spazio che ci ha concesso. Molto è stata veramente una bella chiacchierata. Grazie. Veramente è stata fenomenale, dai. Grazie. Ci ha parlato di ASO e ci risentiremo. Va bene. Alla prossima. Buonasera. Grazie mille. Ringraziamo la signora Franca che ci ha fatto una bella esposizione di ASO, vero Antonio? Molto bella. Ecco. Adesso ci ascoltiamo un'altra canzone che è intitolata Tu sei sempre nel mio cuore, cantata dalle Piccole Ore. Sei sempre nel mio cuore, ogni giorno canta in me la canzone che fu già un eco di felicità. Tu sei sempre nel mio cuore e ogni sera vedo te. Vieni qui per cancellare il mio dolore. So che ancora ti vedrò e felice io sarò e con te ritroverò la primavera. Stagione della vita, per noi due non è finita, come un cantico d'amore, tu sei sempre nel mio cuore. Di nuovo in studio. Allora Antonio, desidererei leggere un racconto di una poetessa trevigiana, la signora Sala Elisa Sala Morin, che ha scritto un racconto, a mio avviso, è molto attuale, ed è intitolato Margareta. Margareta è una straniera che appunto viene in Italia e qui racconta un pochino la sua storia. Il temporale, dopo averne combinate delle sue, si era quietato. Dalla sera prima e per tutta la notte non aveva fatto dormire nessuno. Margareta guardò amareggiata il grande pino spaccato in due dal fulmine e si consolò pensando al profumo della legna e le pigne nel fuoco del camino. L'inverno non era poi così lontano. Intravide il raggio di sole che a quell'ora colpiva come una freccia la testata del letto della sua signora, la nonna per lei che la accudiva giorno e notte affettuosamente e anche per la sua bambina. Da giorni Margherita aspettava ansiosa di accompagnare la figlia alla festa della scuola di fine anno. Ma la nonna durante la notte aveva avuto un attacco di cuore e il medico, subito accorso e dopo le prime cure, gli aveva proibito di lasciarla sola. Dopo aver tentato inutilmente di trovare qualcuno che potesse sostituirla, anche solo per un paio d'ore, si stava rassegnando all'idea di dover restare al capezzale della nonna. E pensare che per l'occasione si era comperata anche un bel vestitino. Aveva buon gusto e con poco, anche con uno straccetto, riusciva a fare la sua bella figura. Guardò il nuovo acquisto, desolatamente appeso al gancio, mentre il tempo non passava mai e forse sperava ancora che qualcuno arrivasse in suo aiuto. Margherita tornò a sedersi vicino alla finestra, pensando ai 7 anni passati ad accudire con amore quella vecchia signora, che per la sua bontà le era diventata così cara da considerarla una parente. Grazie al suo aiuto e alla sua comprensione, aveva potuto tenere con sé la piccola Jeffrey, scampata anche lei, fortunosamente, dagli orrori della guerra. La donna ricordava ancora con terrore la fuga a piedi da Berati, sotto le bombe e il tiro dei cecchini. Lei, il giovane marito Leon e la piccola, con mezzi di fortuna, erano riusciti miracolosamente a trovare rifugio in Grecia. Come dimenticare il terrore di quei giorni e cancellare dalla mente la sosta al Pireo e il primo mese passato sotto un viadotto con i clochard? Una sera Margherita era stata colta per strada da un improvviso malore. Leon, logorato fisicamente e in preda al panico, era fuggito, abbandonando lei e la bambina al loro destino. Lei, incosciente, fu immediatamente ricoverata in ospedale e la bimba, lasciata sola, fu affidata alla polizia. Il pover'uomo vagabondò per giorni senza una meta. Ancora oggi Margherita si sta chiedendo chi sarà stato quell'angelo che in un centro di raccolta riconobbe Jeffrey e degli incaricati gliela portarono in ospedale. Rimpiange per non averlo conosciuto e potuto ringraziare. I tre ebbero poi la fortuna di essere chiamati in Italia da dei conoscenti. Vissero uniti solo per pochi mesi. Un giorno Leon, tornando a casa dall'ennesima scarpinata alla ricerca di lavoro, fu fermato per strada da una volante. Senza documenti e come clandestino, fu rimpatriato e ricoverato in una struttura mentale. Dal letto le giunse un richiamo. «Margherita, dove sei?» «Sono qui, nonna. Come ti senti?» «Sto bene. Grazie al cielo respiro meglio. Dov'è Jeffrey?» «È andata a scuola, non ti ricordi?» «Gesù, e tu? Non dovevi essere con lei?» «Nonna, come potevo lasciarti sola?» «Con tutti i figli che ho messo al mondo, nessuno si è preoccupato di noi.» La signora pianse. «La piccola aveva bisogno di te, altro che farle fare da infermiera. Sto piangendo pensando a quanto avete fatto per me. Ora devo cambiarti la flebo poi cerca di dormire un altro pochino. Vedrai, fra poco torna. Margareta cambiò velocemente il flacone, lo appese al gancio, accarezzò la donna e aspettò si calmasse. Poi, lenta, tornò alla finestra e guardò affascinata l'arcobaleno che illuminava anche il suo cielo. Sorrise. Dal giorno del rimpatrio del marito non aveva fatto altro che pensare al futuro della sua bambina e ben presto si era adattata a questa nuova vita. In fondo doveva riconoscerlo, era stata anche fortunata. Insieme al lavoro aveva trovato una cuccia serena per tutte e due. Margareta non si perse mai d'animo, si rimboccò le maniche e rinunciò a tutto, anche ai giorni di permesso e alle ferie. Divenne una formichina e imparò l'italiano molto velocemente, anche attraverso mille spedienti. Aiutata dalla vecchia signora, metteva bigliettini dovunque e quando andava a fare la spesa stava attenta ai vocaboli che sentiva e li scriveva su un blocco di carta e al suo rientro se li faceva spiegare. Anche Jeffrey non aveva avuto difficoltà con la nuova lingua e quando andò a scuola, dopo 2 anni di asilo, sapeva l'italiano meglio dei suoi compagni che abitualmente parlavano il dialetto. La donna riandò col pensiero al primo giorno di scuola della bimba e le spese che fecero poi in un grande magazzino. Ricordava l'acquisto doppio dei quaderni per uno scopo escogitato dalla giovane donna. Anche lei nel pomeriggio faceva le lezioni piena di buona volontà, aiutata dalla bambina e sotto l'occhio vigile e compiaciuto della nonna. E ora? Le maestre considerano la sua Jeffrey una bambina molto dotata e lei era così orgogliosa che a parlarne le veniva un groppo in gola. La vecchia signora la chiamò. «Margareta, senti un po', ma non dovrebbe già essere a casa la nostra bimba?» «È vero, si sta facendo tardi», rispose preoccupata. «Ascoltami, valli almeno incontro. Credimi, 5 minuti non mi cambiano la vita. Vai, sbrigati!» «Vado!» La donna, presa dall'ansia e anche sollevata, si levò il grembiule bianco, staccò la flebo quasi finita, diede un bacio in fronte alla vecchia e sorridente infilò il portone. Corse come non mai e alla fine dello stradone vide delle donne e dei bambini. Dal gruppo si staccò la sua bella bimba bruna e come le fu vicina sventolò la pagella gridando a squarciagola: «Mamma, siamo state promosse!» Ecco, è finito. Leggi qualcosa tu? Sì, io pensavo di leggere di Sante Rossetto, Le stagioni perdute, Piazza Editore. Si parla del tramonto della civiltà contadina in un paese del Veneto. Il freddo era forte e c'era anche la neve. Di notte le finestre delle camere si coprivano di arabeschi ghiacciati. Angelo rannicchiava la testa sotto la coltre di piuma d'oca e gli piaceva vedere il fumo del fiato svanire nell'aria. Il mattino cercava di rinviare il momento di abbandonare quel tepore avvolgente. «Angelo, alzati!» gli gridava la mamma dalla cucina. Allora, battendo i denti, scattava fuori dal letto e correva a scaldarsi vicino al fuoco. Si vestiva continuando a batter brocche, un po' per il gelo e un po' per divertirsi. Dopo allungava le mani piegate dai geloni sopra la cucina per scaldare le dita rossastre. «Tra qualche giorno è il primo dell'anno e andrai a fargli auguri», gli diceva la mamma dandogli il solito piatto di latte con un po' di cao e la fetta di polenta appena abbrustolita che aveva impastato la stanza dell'odoroso bruciore della sua crosta. Angelo, dopo, prendeva la sacchetta con i quaderni, il canotto con il pennino e la gomma e apriva la porta della stalla facendo scattare con un rumore secco il saltarel, poi avvolgendosi nel penetrante calduccio che sapeva di grassa e di umido. Voleva finire i compiti e avere tanto tempo per godere le altre feste. Le vacche si voltavano continuando a ruminare. appoggiava il quaderno su un tavolino sbilenco e non immune da sguinzi di pissarotto e cominciava a scrivere. Il primo dell'anno riempiva i bambini di vitalità interessata. La sera Angelo andava a letto presto, si ficcava sotto le lenzuola grosse e gelide e faceva il conto delle case da visitare per gli auguri. Non sentiva quasi il freddo la mattina presto, andando a messa prima, dove trovava i compagni di scuola promosi anche loro di andare a iurar buon anno. Tornava a casa di corsa, mangiava la poleta inciucandosi, si copriva con la sciarpa fino agli occhi, berretto, guanti e cominciava il giro. I parenti sapevano che il mattino sarebbero arrivati i bambini. Preparavano la mancia di pochi spiccioli in cambio di quel saluto gradito e innocente che apriva con favore un nuovo periodo. Entrando nel cortile delle case li aspettava sempre un cane. Abbaiava con furore, tirando la catena attaccata a un collare di filo di ferro che gli rigava dolorosamente il collo. Usciva il padrone che mandava a cuccia l'animale e sorrideva al piccolo. Angelo, con la sciarpa sulla bocca e gli occhi intimoriti sotto un berrettone grosso di lana, lo guardava affrettandosi a dire «Buon anno!». L'augurio usciva strozzato e quasi infreddolito dalla sciarpa che spandeva nel gelo il calore delle parole infantili. «Grazie, caro!» gli rispondeva subito l'uomo accarezzandolo. Angelo restava lì fermo. Il padrone lo chiamava dentro. «Vien, vien che qua fa freddo!» Il bambino avanzava cercando di non far rumore con le scarpe della festa sformate da calzettoni troppo voluminosi. Le donne lo salutavano con calore e lui ripeteva «Buon anno!». Gli toglievano berretto e sciarpa. «Che qua fa caldo e quando che te va fora te ciapi qualcosa!». Intanto tiravano fuori dalla credenza una fetta di dolce fatto in casa. «Ciapa, magna una fetea!». Angelo si sedeva e addentava il dolce senza togliersi i guanti. Poi arrivava il padrone e il bambino seguiva ansioso i suoi gesti. L'uomo metteva la mano in tasca, raccoglieva qualche pezzo da 10 lire. «Tian qua, ecco a buona man», gli diceva sorridendo. Angelo, che aveva raggiunto il suo scopo, si affrettava a cacciare in tasca la mancia e finiva di sbocconcellare il resto del dolce. «Grazie», farfugliava con la bocca ancora piena, fracandosi il berretto in testa e avvolgendosi nella sciarpa. Usciva di corsa inseguito dall'abbaiare del cane per andare a iurar buon anno in altre famiglie. Per strada incontrava qualche uomo con le mani nelle manopole del manubrio protette da una pelle di coniglio rovesciata. Angelo non gli augurava buon anno perché non lo conosceva e poi non gli avrebbe di sicuro dato la mancia. Tornava a casa con un piccolo gruzzolo che mostrava orgoglioso e pensava che per lui l'anno era iniziato bene. Il giorno dopo cominciava a raccogliere fassine, sterpi e rovi per il pane vin. Con un piccolo carretto andava lungo le siepi a scovare qualche ramo trascurato mentre si faceva siesa. Avrebbe voluto portare a casa anche i rovi, ma bisognava usare la messora per tagliarli e lui non gliela davano perché era troppo piccolo e poteva farsi male, come quella volta che, per imitare la mamma, aveva brancato un mannello di erba con la sinistra mentre con l'altra mano aveva dato un colpo per tagliarla e invece di segare l'erba il fancetto si era conficcato in un dito. E da allora Angelo guardava la messora con rispetto e un po' di paura. A strappare i rovi andava suo padre, che aveva le mani callose e non sentiva le spunciate degli spini. Angelo stava attento a non pungersi perché i rovi erano infidi e i rami non sapevi mai dove andassero a finire con le loro traiettorie pencolanti e potevano striarti un braccio o anche la faccia. D'estate invece i rovi erano belli verdi e davano more buonissime che valevano qualche spunciata pur di coglierle. Secchi, senza foglie, apparivano rami lunghi, contorti e inutili, ma erano l'anima del pane vin. Ogni abitazione aveva il suo pane vin. Piantavano un palo nel prato in mezzo al vigneto e ammucchiavano tutto quello che si poteva bruciare. E quando non ce n'era abbastanza, si prendeva qualche fassina che incrementava il mucchio. Angelo saltava per l'euforia la sera prima del grande falò. I ragazzi, quando sarebbero tornati a scuola, avrebbero fatto il confronto. «Il mio era più alto!» «Sì, ma il mio faceva più chiaro!» Mentre gli uomini stavano ancora mangiando i radicchi con il lardo e le uova, Angelo sgusciava fuori. «Copriti che è freddo!» gli raccomandava dietro la mamma. Andava a vedere se nell'imbrunire che anneriva il cielo fiorisse qualche lunga lingua di fuoco. Ma l'orizzonte era immobile nel buio percorso dai latrati dei cani. Rientrava a dire che non si vedeva ancora niente. Poco dopo tornava in mezzo al prato a scrutare attorno. Un rossore stava colorando il cielo. «I campi San Panevin!» urlava spalancando la porta della cucina. Il nonno, un po' seccato, gli diceva di starsene zitto. Angelo, invece, la sua frenesia era irrefrenabile. Scattava di nuovo attraversando il cortile fino al Panevin. Continuava a scrutare attorno. «Ecco un altro!» urlava sperando che suo padre lo sentisse e si affrettasse ad uscire per accendere anche il loro. E sono queste bella però, scene di vita che anch'io ho vissuto. Queste sono, come dire, tranche de vie, direbbero i francesi. Una scena di e vita sono antica. Cose che stanno, come dire, ogni volta che si ripete questo rito, questo rituale antico, ritorna alla mente a chi li ha vissuti, naturalmente, certo. Anni sicuramente meno complessi, meno complicati. Tu vai a vederlo attuali. Il Panevin? Ma diciamo che ormai ho così lasciato ad altri questo. Ma so che esiste, diciamo, sì, so sì, che mi ricorda certo, tante certo, cose. Certo. E quando leggo appunto questi resoconti, eccetera, capisco che le cose stanno invece come il racconto dire, della cambiando Elisa, radicalmente. Il racconto della Elisa è attuale perché parlava di questa. Certamente, che... sì, sono tutte, anche questa è una tranche di vie importante. Sì. Non ci resta che dare naturalmente la buona mi dispiace. Notte. Siamo arrivati ormai alla conclusione. Come passa presto un'ora, molto però, presto. Vero? Sì. Certamente. Allora Antonio, come sempre ti ringrazio. Grazie anche a te e gli ascoltatori e alle ascoltatrici. Ringraziamo i nostri ascoltatori di aver avuto la pazienza di ascoltarci e un saluto affettuoso e come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.